Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Cominciamo dal dibattito europeo sull'immigrazione, perché questa mattina si è pronunciata sul tema anche la Corte di Giustizia Europea. Tutto nasce da un cittadino albanese che, espulso dall'Italia con un divieto d'ingresso per 3 anni, vi aveva fatto poi ritorno violando il divieto. Il pubblico ministero aveva avviato quindi nei suoi confronti un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendone la condanna a 8 mesi di reclusione a norma della legislazione italiana. Oggi la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che se il migrante è espulso e ritorna, violando un precedente divieto, va condannato. La direttiva rimpatri, dice la Corte, non impedisce infatti ad uno Stato di comminare una pena detentiva a un cittadino di un paese terzo che entri irregolarmente nel suo territorio, trasgredendo così un precedente divieto d'ingresso. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sullo scandalo Volkswagen, il ministro dell'economia lussemburghese Thien Schneider, all'arrivo a Lussemburgo al Consiglio europeo competitività, ha fatto sapere che ci sarà uno scambio di vedute sul tema durante il pranzo di lavoro in corso, soprattutto con il ministro tedesco. Ha chiarito per vedere qual è il suo punto di vista e cosa la Germania vuole fare, quello che propone la Commissione per evitare emissioni truccate in futuro. Proporrò di prendere misure che siano europee, dice il ministro spagnolo dell'industria José Manuel Soria López. Non dobbiamo aspettarci di avere misure nazionali perché è un problema europeo. Commissione europea che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. La lettera di messa in mora sarebbe stata inviata già il mese scorso. Altri 17 paesi non hanno recepito la direttiva. E il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di un'azienda polacca. Chiedeva di registrare il marchio con un coccodrillo quasi uguale a quello della Lacoste. Il disegno, pensato dalla società polacca Mocek & Venta, avrebbe creato confusione per il grande pubblico. L'immagine azzurra di un caimano era troppo simile al coccodrillo verde della Lacoste. Nel 2007 Mocek & Venta chiese all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno di registrare il caimano come marchio comunitario per borse, scarpe, cuscini e vestiti per animali. Ma la nota casa di abbigliamento francese di proprietà del gruppo familiare svizzero Maus Frère si oppose, a difesa del rettile impresso sul cuore delle polo dal 1933 per volontà del campione di tennis René Lacoste. L'ufficio decise a favore della Lacoste, ma la società polacca non si è data per vinta e ha fatto ricorso al Tribunale dell'Unione Europea. Oggi la fine della disputa. Mocek & Venta non può usare il suo caimano come marchio. In Europa c'è spazio per una sola specie di coccodrillo, quello targato Lacoste. Di Via Liberatore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'Europa vi aspetta ad effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.